I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. A pochi minuti dall'apertura ufficiale dei mercati, già la tendenza di quello che dovrebbe capitare nella giornata l'abbiamo vista verificarsi lungo tutta la notte, e non giriamoci attorno: la sconfitta clamorosa del governo a questo punto dimensionario avrà un'influenza sui mercati. L'ho avuta lunga tutta la notte sul rapporto di cambio euro nei confronti di dollaro e yen, lo avrà nello specifico sull'Italia e in particolar modo sui titoli bancari appesi, come sappiamo, e a questo punto con un errore madornale, appesi, dicevamo, alle sorti di questo referendum. Convocato per oggi già un consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, ma in realtà l'invito che possiamo dare è quello a non guardare semplicemente l'andamento, che sarà probabilmente molto ballerino delle borse e dei titoli legati al settore bancario italiano. Si ballerà, e probabilmente si ballerà per un po', ma la vera cifra di quello che è successo l'avremo fra qualche giorno, ossia quando riusciremo a fornire a mercati, speculatori e non, dei tempi sulla chiusura della crisi di governo, sia che si vada verso un governo tecnico, sia che si vada verso un governo di larga maggioranza, ma soprattutto la data delle nuove elezioni, che sembrano inevitabili. Più che il ballare delle prossime ore, dei prossimi giorni, sarà importante infatti capire il messaggio di medio termine che si darà all'Europa e ai mercati, sapendo che dicembre è un mese delicatissimo per varie scadenze. Citavamo le banche, ma c'è anche una legge di bilancio che deve avere il suo via libera definitivo dall'Unione Europea. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Il primo lunedì dopo il referendum è passato tutto sommato tranquillo sotto i mercati finanziari. L'attesa di una vendita in massa sulle azioni italiane non si è verificata, un modesto ribasso dello 0,25% certamente non è un segnale di grande sfiducia nei confronti del paese. Ma come vanno interpretate allora queste reazioni? Già in occasione di Trump e di Brexit abbiamo visto la borsa reagire in modo, se non scomposto, quantomeno in direzione opposta a quella che si aspettavano gli analisti, cioè ondate di panico. Ma che cos'è che toglie il panico? Non è certamente la prospettiva di stabilità in Italia, anzi, quello che si aspettano i mercati è una prolungata instabilità. E allora è soprattutto il fattore finanziario. La presenza della BCE che compra i titoli di Stato, quello sì, ha limitato oggi le perdite che potevano essere sicuramente maggiori, ma soprattutto il quantitative easing, la liquidità che non dei mercati, ha creato un cuscinetto sotto gli errori della politica. Un vantaggio tutto sommato, non soltanto per quei partiti che provocano gli strappi, ma tutto sommato anche per i risparmiatori e per gli investitori che evitano così dei traumi. Ma attenzione, proprio perché non collegata più alle vicende politiche, la borsa è molto pericolosa in questo momento. Ondate di vendite possono colpire il mercato, bastano piccole tensioni sui tassi di interesse o altre questioni geopolitiche. Fatto sta, viviamo in un mondo molto fragile, e anche il caso italiano, a volte dipinto come un fattore di crisi continentale, altre volte come una crisi locale, riflette proprio questo, una confusione da parte di chi dovrebbe invece dirci dove sta andando la politica, dove sta andando l'economia e soprattutto che fine faranno i nostri risparmi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.